mettete a pancia in su. Con i piedi là? Sì, sì, sì. Vi mettete a pancia in su, supine, e velocemente, visto che abbiamo già osservato gli appoggi questa mattina, li scannerizzate dai talloni fino alla testa, vedendo se c'è qualche cosa di diverso, osservando come appoggia un lato l'altro, se è simmetrico, asimmetrico. Ok, adesso lentamente arrotolate sul fianco e vi mettete a quattro zampe. Quattro zampe in modo che le mani e le ginocchia siano alla larghezza delle spalle delle anche, quindi in teoria io potrei sedermi sulle vostre spalle perché c'è proprio un qualcosa che sorregge, quindi i polsi non sono più fuori delle spalle ma proprio sotto, e le ginocchia non sono più fuori delle anche ma proprio sotto. Ok, adesso lentamente cominciate con l'infilare il braccio destro sotto il buco tra, scusate, braccio sinistro sotto il buco tra il braccio destro e il corpo. E ritorno. E continuate, piano piano piano. Quindi penso che sentirete che per farlo è necessario piegare un po' il braccio destro e vi accorgerete che il movimento è in torsione, giusto? Ok, adesso quando avete bisogno di riposarvi potete sedervi o mettervi come volete, io vado avanti e voi vi riposate quando avete bisogno. Allora adesso allungate come prima il braccio sinistro sotto il buco formato dal braccio destro al resto del corpo, e questa volta lo fate arrivando ad appoggiare la guancia sinistra per terra. E ritornate piano piano piano, state correndo, posizione più lenta e più comoda. E continuate facendo proprio attenzione a cosa succede nel braccio, nella colonna vertebrale, nel collo, come si mettono le costole, lo sterno, e in modo da appoggiare la guancia sinistra in modo che il collo non ne risenta. Potete fermarvi se avete bisogno. Avete bisogno di fermarvi, vado avanti. Ok, di nuovo quattro zampe. E adesso infilate la mano sinistra come prima sotto il buco del braccio destro. Appoggiate la guancia sinistra e rimanete là per terra con la guancia sinistra appoggiata a terra. E arrivate in quella posizione, provate ad appoggiare la mano destra sulla fronte e piano piano, per quel che potete, ruotate con la mano la testa a destra e a sinistra, in modo da far sì che il collo faccia il minor sforzo possibile e sia il più libero possibile. e osservate come passa il movimento nel torace, nelle costole, nella colonna vertebrale. Bellissimo vederlo fare a voi. Ok, vi mettete a pancia in su, supine, riposate. Se volete potete da lì allungare il braccio in basso e mettere il contrario, ma adesso dovranno i piedi, come vi dice meglio. Ed ora di nuovo rotolate sul fianco sinistro, ritornate a quattro zampe, potete farlo nello stesso modo, potete spingerlo. E adesso infilate ancora una volta dalla posizione quattro zampe la mano sinistra nel buco tra il braccio destro e la gamba destra. Appoggiate per terra la guancia sinistra e mettete la mano e il braccio destro allungati avanti in modo da essere con un braccio, no, avanti in modo da essere con un braccio sopra l'altro, una mano sopra l'altra. Ok, e adesso molto molto lentamente cominciate a muovere il braccio destro verso il soffitto. E torno piano, piano, piano, piano, piano, senza forzare. Osservando se c'è un modo che, nel quale potete mettere la testa al collo che non vi dia fastidio. E osservate se in tutto questo respirate. E man mano, se non avete bisogno di riposo, man mano che continuate a farlo, provate ad andare ogni volta un pochino più indietro, come per arrivare con le braccia aperte. Senza forzare. Osservate come tenete la bocca, osservate come passa il movimento nel torace. E vi riposate un po' pancia in su, quindi da lì allungate le gambe, rotolate verso il soffitto. E vi riposate. Ma perché si è fermato? Si è fermato improvvisamente. Si è bloccato? Ma forse era una gabbiana. È venuto. Scusa? Si è fermato, è venuto fuori tutta questa roba qua. Cosa? Questa roba qua, non c'è bisogno. E si è fermato. Ed è questo? Non ho premuto niente io. No, ho sbagliato. Ok. Si è cancellato? No, non credo. No, penso che l'hai... Aspetta. Ma come mai mi hai detto fuori quella roba là? Beh. Ma vedi che c'è anche adesso? Non c'era prima o sbaglio? Quando è che viene fuori? Adesso cerchiamo di capire. Allora, questo è quello di prima, giusto? L'ultimo che hai fatto. E che ne so? Si è ferma. Sul fianco devi mettere. Sì, questo quello non l'hai fatto. Boh. Okay. Osservate come tenete la bocca. Boh. Benissimo. Adesso vi siete riposate. Di nuovo ritornate a quattro zampe. Di nuovo infilate il braccio sinistro nel buco tra braccio destro e gamba e corpo a destra, poggiate a terra la testa, la guancia sinistra, mettete le braccia una sopra l'altra e questa volta per riuscire ad aprire di più il braccio sinistro in fuori in modo da arrivare con entrambe le braccia aperte a croce, mettete le dita del piede destro in sotto come per correre e man mano che muovete il braccio sinistro in fuori a sinistra destro Lella questo sì braccio destro scusate muovete il braccio destro in fuori verso destra vi bilanciate spostando il piede destro un pochino verso fuori e verso la testa. Quindi bilanciate sollevando il ginocchio e poi ritornate e continuate a farlo finché pian piano vi accorgete che forse non basta solo sollevare il ginocchio ma è necessario anche camminare un po' col piede destro in fuori verso la mano sinistra. Può essere che a questo punto le persone perdano l'equilibrio, non importa, è un lavoro che si fa per fare una specie di capovolta sulla spalla che si fa negli arti marziali. E continuate piano piano per riuscire ad andare con il braccio più aperto e più in fuori, lasciate che il piede destro si sposti in fuori e verso braccio sinistro. Quindi man mano la gamba sinistra è piegata e man mano fate una specie di dondolo tra la spalla e la gamba. La spalla va giù e il braccio va giù e la gamba viene su e viceversa. E se perdete l'equilibrio, come avete fatto, non c'è problema, ritornate piano piano piano nella posizione. Questo è quel lavoro che vi dicevo che una mia collega Felling salutavo mesi di gravidanza e riusciva a fare. Spesso quando si arriva al limite di appoggiare il braccio ci sono le ultime costole, quelle fluttuanti che stanno come rigidite e contratte. Allora se una persona vi viene e vi massaggia un po' nelle costole fluttuanti vi aiuta. E continuate piano piano piano il movimento cercando di vedere se potete evitare di farlo con la testa premendo troppo il collo. Sì, già. Lella non riprendere quando cado. Si sto riprendendo lei quando vedo che lo fa e te quando sei all'inizio non cadi. Ce la metto tutta qua ogni tanto mi... adesso ripenso che lei è caduta, quindi siamo pari. Non è tanto scontato. È facile. Cioè fallo così. Sai quella destra che deve venire su con la gamba? Con la destra? Sì. La gamba sì, destra la gamba muovete verso la mano sinistra. Deve andare tanto su. Bravissima. Eccola là. Eccola là, brava. Piano, piano, piano, senza forzare. Senta di farlo col panzone però. Respirando, beh, questa volta un mese vi assicuro, lo faceva. Quindi è tutto relativo. Sì. Una questione di gravidanza, non gravidanza, pancia, non pancia, magro. Anzi, i magri a volte sono più rigidi dei ciccioncelli. No. Buttiamo un punto a favore. Siamo arrivati qua, cosa facciamo? Torni giù, dopodiché vi dico cosa possiamo fare per andare oltre. Cioè, torno in posizione di partenza. A quattro zampe. Quando sei arrivata, che ce la fai a stare con entrambe le braccia aperte appoggiate sul pavimento, ritorna a quattro zampe, riposati un po', dopodiché vi dico cosa possiamo fare. Vedi, improvvisamente saltano fuori quelle luci e non vedo più. Si è fermato il cronometro, non vedo più. Si è rifiutato di riprendermi. Perché si è fermato? Non ho premuto niente. Ok, ritornate quattro zampe. Ed ora facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ovviamente non parte. Allora adesso quattro zampe sempre con la spalla sopra la perpendicolare che va sulla mano e viceversa dell'altro sopra il ginocchio, cominciate piano piano a muovervi infilando il braccio destro nel buco formato dalla spalla sinistra. Qua c'è ancora qualcosa che non va, Okay. Allora, siete a quattro zampe, è un po' più difficile prendervi, ma ce la metteremo tutta. Ok, perfetto. E adesso a quattro zampe infilate questa volta il braccio destro nel buco tra il braccio sinistro e il corpo. E ritorno. E man mano scendete, non subito, ma man mano, fino ad arrivare ad appoggiare la guancia destra. Piano, state correndo, deve essere molto molto più lento, perché non è un movimento semplice. Soprattutto per persone che non sono abituate a farlo, le distruggete altrimenti. E continuate lentamente. Allungando il braccio. E respirando. E sentendo come si muove tutto il torace, tutta la schiena, le vertebre. Ok, riposate un po' nella posizione che volete. Fatto? Sì. E quelli che sostengono Samsung hanno queste piccole vittorie sull'Apple. Beh, l'Apple sta facendo troppo la schifitosa. Ritornate a quattro zampe. A quattro zampe di nuovo ed ora cominciate ancora una volta ad infilare il braccio destro nel buco tra braccio sinistro e il resto del corpo, ad appoggiare la guancia destra a terra e rimanendo con la guancia destra appoggiata a terra appoggiate la mano sinistra sulla fronte. E molto lentamente ruotate la testa a destra e a sinistra, senza forzare troppo verso destra, l'importante è più verso sinistra al centro. Sentite, ascoltate come passa il movimento lungo la schiena. e riposate un po'. Se volete potete da lì lasciarvi come cadere verso sinistra e arrivare la pancia in su, supine. E riposate. Osservando se c'è qualche piccolo cambiamento, soprattutto nel torace. Ritornate a quattro zampe da supine, ripassate e ritornate a quattro zampe come volete. Infilate il braccio destro nel buco formato dal braccio sinistro del corpo, appoggiate la guancia destra a terra, ovviamente il braccio sinistro spiega, e appoggiate il braccio sinistro sopra il destro, quindi siete con una mano sopra l'altra. E molto lentamente cominciate a muovere il braccio sinistro verso il soffitto in fuori e ritorno. Quindi aprite il braccio sinistro e pian piano osservate come passa il movimento nel corpo e se state facendo troppo sforzo sul collo. O se avete ben distribuito il peso sulla testa, la guancia, e quindi il collo non vi dà fastidio, e continuate piano piano piano ad aprire il braccio in fuori e man mano, se volete, potete cominciare ad aprirlo sempre di più, come per arrivare con braccia aperte, dove il torace e il viso sono girati verso soffitto, e per fare questo vi accorgerete che vi aiuta, come abbiamo visto dall'altro lato, a mettere le dita del piede sinistro in sotto e a sollevare il ginocchio sinistro. E man mano che aprite il braccio, fate una specie di dondolo tra il braccio destro e il ginocchio sinistro. E vi accorgerete, come abbiamo detto prima, che per arrivare di più con le braccia aperte vi aiuterà anche il fatto di spostare il piede sinistro verso la mano destra, quindi c'è una specie di altalena tra il braccio sinistro e la gamba sinistra. Osservate da quale lato questo movimento vi riesce meglio, se quello di prima o quello di adesso. Perché di sicuro c'è un lato dove il movimento è molto più semplice rispetto all'altro. Un lato dove toccate quasi subito col braccio e un lato invece dove avete dovuto dondolare molto di più. Mannaggia, Lella, c'è anche un discorso di apprendimento, cioè nel senso la prima volta, il primo lato. Ok, allora, tornate a quattro zampe ed ora, a quattro zampe, ed ora di nuovo infilate il braccio destro come prima, sotto il buco formato dal braccio sinistro del corpo, aprite fuori il braccio sinistro verso destra, sollevate il ginocchio e la gamba sinistra, spostate il piede sinistro verso il braccio destro e pian piano vedete se riuscite ad appoggiare il braccio. Ora, per fare la prova seguente, vedete da che parte vi riesce di più questo movimento, vale a dire da che parte toccate con entrambe le braccia e mettetevi da quella parte. Quindi dobbiamo tornare così. Se avete bisogno, provatelo una volta da una parte e una volta dall'altra. Vediamo se riusciamo a fare quello che fanno i bambini che si divertono a fare o no. E se no, impariamo in modo da far fare loro. Perché una volta che più o meno arrivate con entrambe le braccia, cosa potete fare? Molto lentamente potete spostare entrambi i piedi camminando dietro la testa, come per arrivare massima raccolta dietro. Cioè così. Andate e continuate a spostare i piedi come se foste con le gambe buttate indietro la testa e poi piano piano piano, volendo, potete continuare fino a camminare verso la mano destra e poi scendere e descrivere tutto il giro. Quindi in teoria con i piedi descrivete attorno al vostro corpo tutto quanto il cerchio. Ci siamo come comprensione, poi come esecuzione non ci importa, l'importante è che avete capito cosa intendo dire. Non ho sentito la risposta. Sì. Ok. Immaginate come si divertono i bimbi. Sì. Aspetta, ti bisogna camminare con l'altra gamba. Certo, con tutte e due. Descrivi una. Aspetta. Quindi scegliete la parte più semplice, più facile, perché farne la parte più complessa vuol dire essere masochisti. Così, e adesso? Continua verso di me, così è lì, nella parete, dietro la testa, pian piano, cammini e li sposti. Vedete come la gamba la volta indietro. Spostare questa, l'altra gamba. Beh, vabbè, non è che si può avere riuscire a fare tutto subito, o è con naturale o ci si mette un po' di tempo, però non è che immediatamente. Adesso però mi viene più spontaneo dall'altra parte, sai? Prova dall'altra parte allora. Perché può essere, sai, che una volta che appena l'ore tutti ti facciano una cosa e dice l'altra che succede. Quando respiro. Vediamo un po' come va. Fede? Prima, pian piano. Le scimmie non ti posso. Non si può toccare. Come no? Quando fai le lezioni individuali. Sì, sì, hai ragione. C'è anche qua un problema che è tutto pieno. Penso di sì. Ah, no. Ok, l'ultima volta provate a descrivere questo giro completo mettendo il braccio o anche cambiandolo, facendo dall'altro lato, mettendo sotto il braccio sinistro. E poi siete con le braccia aperte e piano piano piano i piedi cominciano a girare, a muoversi lungo la testa, dietro la testa. Io arrivo fino a qui. Io come faccio a spostarla? Continua, non l'ho fatta. Fede, guarda, guarda. Continua, continua che ti sto riprendendo. Aiuto! No, non urlare, aiuto, vai. Respira. Ok. Ma come faccio a fare l'altro ginocchio? Non ho ancora capito. Ma senza continua. Dove vado, Lella? Vai adesso verso la parete della porta. Continua il giro, giusto? Vai verso la mano sinistra. Scalare. Che è questa? È quella lì. Scavalco. E vai. Devo scavalcarla? Certo che sì, perché devi arrivare in posizione di partenza. Come sei partita, ritorni. Non mi ricordo più come sono partita. Sei partita a quattro zampe, ritorna a quattro zampe. Con le braccia aperte, continua. Piano, piano, piano, piano. Dai che ce la facciamo, così avete la ripresa completa e vi capite no, nel caos. Video. Io credo che... Vai, continua, continua. Non imbrogliare, perfettamente quattro zampe, ok. Ritorna, appoggia la mano. Così? Destra per terra. Come? Quella mano lì per terra e torna a quattro zampe. Così? Sì, appoggia di lato a te, sposta la mano sinistra indietro e quattro zampe. Ah. Yeah.